ad Albertine. Ad alta voce, Marco Foschi legge Doppio sogno di Arthur Schnitzler, traduzione di Giuseppe Farese. Fridolin fu svegliato alle 7 del mattino dalla cameriera che bussò piano alla porta. Gettò una rapida occhiata ad Albertine. Talvolta, non sempre, quei colpetti svegliavano anche lei. Oggi dormiva ancora, immobile. Troppo immobile. Fridolin si preparò in fretta. Prima di uscire volle vedere la figlia. Dormiva tranquilla nel suo lettino bianco, le mani serrate a pugno come proprio dei bambini. La baciò sulla fronte. In punta di piedi entrò di nuovo in camera da letto dove Albertine riposava immobile, come poco prima. Poi uscì. Portava con sé, ben riposti, nella sua borsa nera da medico, il saio e il cappello da pellegrino. Aveva preparato con cura, addirittura con una certa pedanteria, il programma della giornata. Prima di tutto doveva passare a visitare, proprio vicino a casa, un giovane avvocato gravemente ammalato. Fece una visita scrupolosa, trovò il malato alquanto migliorato, se ne rallegrò sinceramente e scrisse su una vecchia ricetta il consueto repetatur. Poi andò subito a cercare il locale nel cui scantinato Nachtigall aveva suonato il piano la sera precedente. Era ancora chiuso. Tuttavia, la cassiera del caffè sapeva che Nachtigall abitava in un piccolo hotel della Leopoldstadt. Un quarto d'ora dopo, la carrozza di Fridolin si fermava davanti a una miserabile locanda. Nell'atrio c'era odore di letti sfatti, di lardo rancido e surrogato di caffè. Un portiere dall'aspetto equivoco, gli occhi scaltri, cerchiati e rossi, abituato a essere interrogato dalla polizia, gli fornì volentieri delle informazioni. Il signor Nachtigall era rientrato la mattina alle 5 in compagnia di due signori che si erano resi alquanto irriconoscibili, forse intenzionalmente, sollevandosi la sciarpa sul viso. Mentre Nachtigall era salito nella sua stanza, quei signori avevano pagato il suo conto del mese passato. Poiché dopo mezz'ora egli non era ancora ricomparso, uno dei due signori era andato personalmente a prenderlo, dopodiché erano partiti tutti per la stazione nord. Nachtigall era apparso molto eccitato e poi, perché non dire tutta la verità a un signore che ispirava tanta fiducia, aveva tentato di dare di nascosto una lettera al portiere, ma i due signori l'avevano subito impedito. Le lettere recapitate in seguito al signor Nachtigall, avevano aggiunto, sarebbero state ritirate da una persona a ciò autorizzata. Fridolin si congedò. Nell'uscire fu contento di avere con sé la sua borsa da medico, almeno non l'avrebbero preso per un frequentatore di quell'hotel, ma per un funzionario. Quanto a Nachtigall, per il momento non c'era dunque nulla da fare. Erano stati molto prudenti e avevano tutte le ragioni per esserlo. Si recò allora al magazzino dei costumi. Venne ad aprire proprio il signor Gibiser. «Le ho riportato il costume», disse Fridolin, «e desidero sapere quanto le devo». Gibiser chiese una somma modesta, incassò il denaro, lo registrò in un grosso libro contabile e, ancora seduto dietro la scrivania del suo ufficio, sollevò piuttosto meravigliato lo sguardo verso Fridolin, che non accennava ad andarsene. «Sono qui, fra l'altro», disse Fridolin con tono di un giudice istruttore, «per scambiare qualche parola con lei in merito a sua figlia». Le pinne del naso di Gibiser si contrassero leggermente. Disagio, beffa, o stizza, non era facile stabilirlo. «Come dice, signore?» domandò in tono parimenti indefinibile. «Ieri ha detto», continuò Fridolin, una mano appoggiata con le dita aperte sulla scrivania, «che sua figlia non era del tutto sana di mente. La situazione in cui l'abbiamo sorpresa lasciava credere che fosse realmente così. Poiché il caso mi ha fatto partecipare o almeno assistere a quella scena singolare, le consiglierei di consultare un medico, signor Gibiser». Gibiser, rigirando tra le mani una penna lunga oltre misura, squadrò Fridolin con uno sguardo insolente. «E il signor dottore avrebbe forse anche la bontà di prenderla in cura?» «La prego di non attribuirmi parole che non ho pronunciato», rispose Fridolin con voce tagliente ma un po' rauca. In quell'attimo, la porta che dava sulle stanze interne si aprì. Comparve un giovane col soprabito aperto, sul frac. Fridolin capì subito che non poteva essere altri che uno dei giudici Genaveme della notte scorsa. Non c'era dubbio. Veniva dalla stanza di Pierret. Sembrò sorpreso nel vedere Fridolin, ma si dominò subito. Salutò fuggevolmente Ghibiser con un cenno della mano, poi si accese una sigaretta con un accendino che si trovava sulla scrivania e uscì. «Ah, è così!» osservò Fridolin atteggiando le labbra a una smorfia di disprezzo, mentre sentiva un sapore amaro sulla lingua. «Come dice, signore?» chiese Ghibiser con assoluta indifferenza. «Dunque ci ha rinunziato, signor Ghibiser!» E con aria di superiorità fece scivolare lo sguardo dalla porta d'ingresso a quella da cui era uscito il giudice della Veme. «Rinunziato ad avvertire la polizia?» «Ci si è messi d'accordo in altro modo, dottore», osservò Ghibiser e si alzò come se fosse terminata un'udienza. Fridolin si apprestò ad uscire. Ghibiser aprì premurosamente la porta e disse senza scomporsi: «Se il dottore dovesse avere ancora bisogno, non è necessario che si tratti proprio di un abito fratesco». Fridolin uscì sbattendo la porta. «La faccenda è conclusa», pensò con senso di rabbia che gli sembrò anche eccessivo. Scese velocemente le scale. Andò senza particolare fretta al policlinico e telefonò anzitutto a casa per sapere se era stato chiamato da qualche paziente, se fosse giunta posta, se ci fossero comunque novità. La cameriera aveva appena risposto a quelle domande che la stessa Albertine andò al telefono e lo salutò. Ripeté tutto ciò che la cameriera aveva già detto. Poi raccontò disinvolta di essersi alzata solo in quel momento e di voler fare colazione insieme con la bambina. «Dalle un bacio da parte mia», disse Fridolin, «e buon appetito». Gli aveva fatto piacere sentire la sua voce e proprio perciò aveva subito interrotto la conversazione. In realtà voleva ancora chiedere ad Albertine cosa avesse intenzione di fare nella mattinata, ma che gliela importava. Nel profondo dell'animo aveva chiuso con lei qualunque piega avesse preso la loro vita. La bionda infermiera lo aiutò a togliersi la giacca, gli diede il camice bianco e gli sorrise un poco, come soleva fare con tutti, ci si occupasse o meno di lei. Pochi minuti dopo, era in corsia. Il primario aveva fatto sapere che era dovuto partire improvvisamente a causa di un consulto. Gli assistenti potevano quindi procedere alle visite senza di lui. Fridolin si sentì quasi felice quando, seguito dagli studenti, passò di letto in letto. Visitò, scrisse ricette, discusse problemi specialistici con medici ausiliari e infermiere. C'erano novità di ogni specie. Il garzone di fabbro Karl Rödel era morto durante la notte. Autopsia, pomeriggio, alle 4:30. Nella corsia delle donne si era liberato un letto, ora di nuovo occupato. La donna del letto 17 avevano dovuto trasferirla al reparto chirurgico. Ogni tanto parlavano anche di problemi del personale. La nuova nomina del direttore del reparto oculistico si sarebbe dovuta decidere dopodomani. Hügelmann, allora professore a Marburg, 4 anni prima ancora secondo assistente di Stellwag, aveva le migliori possibilità di successo. Carriera rapida, pensò Fridolin. Non mi prenderanno mai in considerazione per la direzione di un reparto. Anche perché non ho la libera docenza. Troppo tardi. Ma perché poi? Si trattava solo di ricominciare il lavoro scientifico o riprendere con maggiore serietà alcune ricerche già iniziate. L'esercizio della professione privata gli lasciava comunque sempre abbastanza tempo. Pregò il dottor Fuchsthaler di occuparsi dell'ambulatorio e dovette confessarsi che avrebbe preferito restare là anziché andare sul Galitzinberg. Tuttavia, era necessario farlo. non si sentiva solo obbligato di fronte a se stesso a indagare ulteriormente sulla faccenda. C'erano da sbrigare molte altre cose oggi. E così decise, per ogni evenienza, di affidare al dottor Fuchsthaler anche le visite serali. La giovane dell'ultimo letto, col sospetto catarro apicale, gli sorrise. Era la stessa che recentemente durante una visita aveva premuto così confidenzialmente il seno contro la sua guancia. Fridolin ricambiò di malumore il suo sguardo e si allontanò corrugando la fronte. Una vale l'altra, pensò con amarezza. E Albertina è come tutte loro. È la peggiore di tutte. Mi dividerò da lei. Non potrà mai più essere come una volta. Per le scale scambiò ancora qualche parola con un collega del reparto chirurgico. Allora, chi aveva in realtà la donna che era stata trasferita da loro durante la notte? Per conto suo non era molto convinto della necessità di un'operazione. Comunque, gli avrebbero fatto avere il risultato dell'esame istologico? Naturalmente, collega. All'angolo prese una carrozza. Consultò il suo taccuino, ridicola commedia davanti al cocchiere, come se dovesse decidersi solo allora. Andiamo a Ottakring. Le dirò io dove deve fermare. In carrozza fu di nuovo preso da una eccitazione tra dolorosa e nostalgica. Si sentiva quasi colpevole di non aver più pensato alla sua bella soccorritrice nelle ultime ore. Sarebbe riuscito a trovare la casa? Ma non poteva essere così difficile. Il problema era solo: che fare poi? Denuncia la polizia? Una simile decisione poteva avere spiacevoli conseguenze proprio per la donna che s'era sacrificata per lui, o una non si era dichiarata pronta a farlo. O doveva rivolgersi a un detective privato. Questa soluzione gli sembrò abbastanza di cattivo gusto e non del tutto degna di lui, ma che altro gli restava da fare? Non aveva né il tempo né forse il talento per condurre bene le indagini. Una società segreta? Ebbene sì, ad ogni modo qualcosa di segreto. Ma si conoscevano tra di loro? Aristocratici. O forse addirittura membri della corte. Pensò a certi arciduchi dai quali c'era ben da aspettarsi scherzi del genere. E le donne, probabilmente raccolte nelle case di piacere. Tuttavia la cosa non era affatto sicura. Comunque, merce scelta. Ma la donna che si era sacrificata per lui? Perché poi voleva continuare a credere che si era trattato veramente di un sacrificio? Una commedia. Si capisce, era stata tutta una commedia. In fondo, doveva essere contento di essersela cavata così a buon mercato. Ma aveva conservato il controllo di sé. I cavalieri avevano certo notato che non era uno qualunque. E anche lei se n'era comunque accorta. Forse preferiva lui a tutti quegli arciduchi o gente simile. Alla fine del Liebertal, dove la strada cominciava decisamente a salire, smontò e per prudenza rimandò indietro la carrozza. Il cielo era azzurro pallido e percorso da nuvolette bianche. Il sole caldo, come in primavera. Guardò indietro. Non si vedeva nulla di sospetto. Nessuna carrozza, nessuno in giro. Prese a salire, lentamente. Il cappotto gli cominciava a pesare. Se lo tolse e se lo gettò sulle spalle. Giunse al posto dove a destra doveva staccarsi la via laterale in cui si trovava la casa misteriosa. Non poteva sbagliare. Era in discesa, ma non certo così ripida come gli era sembrata di notte percorrendola in carrozza. Una via tranquilla. In un giardinetto davanti a una casa c'erano dei rosari avvolti accuratamente in protezione di paglia. In quello successivo c'era una carrozzina. Un bambino tutto vestito di lana azzurra correva su e giù. Dalla finestra del pianterreno una giovane donna guardava sorridendo. Seguiva poi un terreno su cui non si era costruito, un giardino recintato e incolto, una piccola villa, un prato, infine... Non c'era dubbio. Quella lì era la casa che cercava. Non sembrava affatto grande o sfarzosa. Era una villa a un piano, in un modesto stile impero, e si vedeva che era stata rinnovata da non molto tempo. Le persiane verdi erano tutte chiuse. Niente faceva pensare che la villa potesse essere abitata. Fridolin si guardò intorno. Nella strada non si vedeva nessuno. Solo più giù camminavano allontanandosi due ragazzi coi libri sotto il braccio. Si trovava davanti alla porta del giardino. Che fare, dunque? Ritornare semplicemente indietro. L'idea gli sembrò addirittura ridicola. Cercò il campanello elettrico e se gli aprivano che cosa doveva dire, ma... molto semplice. Se era possibile prendere in affitto per l'estate quella graziosa villa. Intanto, la porta di casa si era già aperta. E ne era uscito un vecchio servitore in semplice livrea da mattina che percorse lentamente lo stretto viottolo fino al cancello del giardino. Aveva in mano una lettera e la porse, senza parlare, attraverso le sbarre a Fridolin, che sentiva il cuore battergli con violenza. «È per me?» chiese esitante. Il servitore annuì, si voltò, si allontanò e la porta della villa si richiuse alle sue spalle. «Che significa questo?» si domandò Fridolin. «Una lettera della donna? O forse è proprio lei, la proprietaria di casa?» Ritornò indietro in fretta. Solo allora si accorse che sulla busta c'era scritto a caratteri diritti e maestosi il suo nome. Giunto all'angolo aprì la lettera, spiegò il foglio e lesse: «Abbandoni le sue indagini, che sono del tutto inutili, e consideri queste parole come un secondo avvertimento. Speriamo nel suo interesse che non ne siano necessari altri». Abbassò il foglio. Il messaggio lo deludeva sotto ogni riguardo. In ogni caso era diverso da quello che stoltamente si era aspettato. Comunque, il tono era stranamente riservato, per nulla mordace. Lasciava capire che le persone che avevano inviato quel messaggio non si sentivano affatto sicure. Secondo avvertimento. Come mai? Ah, sì. La notte scorsa aveva ricevuto il primo. Ma perché secondo e non ultimo? Volevano di nuovo mettere alla prova il suo coraggio. Doveva superare un esame. E dove avevano appreso il suo nome? Ma proprio di questo non c'era da meravigliarsi. Probabilmente avevano indotto Nachtigall a rivelarlo. E inoltre sorrise involontariamente alla sua distrazione. Nella fodera della pelliccia era cucito il suo monogramma e l'indirizzo esatto. Ma anche se le indagini restavano al punto di prima... quella lettera lo aveva in complesso calmato, senza che potesse dirne la ragione. In particolare era convinto che la donna, per la cui sorte aveva trepidato, era ancora viva e che dipendeva solo da lui ritrovarla, se avesse agito con prudenza e astuzia. Thank you.